Buona domenica da Pino Simplicio, quella tra una novità e l'altra. Domenica 1 aprile 2012, domenica delle Palme, a tutti pace e serenità. E noi, come ormai da qualche domenica a questa parte, continueremo sulla scia verso le elezioni amministrative nella città di Cefalù. Diversi gli ospiti in studio, con loro analizzeremo la situazione che ci porterà il 6 e il 7 maggio a rinnovare appunto il consiglio comunale, il consiglio l'amministrazione, l'elezione del sindaco per quanto riguarda la città di Cefalù. Stamane abbiamo appreso di un ottavo candidato a sindaco, ne sapremo di più nei prossimi giorni. La presentazione è prevista, almeno così abbiamo letto sul giornale telematico Cefalù News, per il 7 aprile presso il Cineteatro Astro, quindi saremo più precisi e puntuali nei prossimi giorni. I nostri ospiti, ringrazio per essere già con noi, Roberto Corsello, vice sindaco. Non candidato a sindaco, adesso Roberto sicuramente avrà modo di chiarirci e di informarci su alcune situazioni. Francesco Dolce, ex amministratore, ex presidente del Consiglio Comunale di Cefalù, già candidato sindaco, mi dice Roberto. Innocenzo Iacono, prossimo, che io ringrazio per essere presente, anche per chiarirci la situazione del simbolo UDC sì, UDC no, accanto alla candidatura di Sgarbi sindaco, e siamo anche in attesa di avere in studio Mauro Caleò, candidato a sindaco. Io inizierei subito con Roberto Corsello, ma non solo, perché ci aveva già detto da ieri quando l'abbiamo invitato, io a mezzogiorno devo lasciare i vostri studi. Roberto rappresenta il passato, rappresenta il presente, il futuro lo vedremo dopo le elezioni. Perché troverà uno scappatoio come entrare. No. Allora, questa è la voce di Ciccio Dolce, ecco, facciamo una trasmissione così proprio da salotto, tranquilli e sereni, però sappiamo benissimo che anche con questa ottava candidatura i problemi penso che non si risolvono con le candidature. Roberto, intanto per le prossime elezioni, in che area sei collocato, con chi sei, con chi starai accanto? Mi pare che non sia una questione su cui ci possono essere dubbi. Io sono candidato al Consiglio Comunale in una lista civica che si chiama Onestà e Tradizione, che sostiene la candidatura del sindaco uscente, quindi la conferma del sindaco in carica, dottor Giuseppe Guercio. Roberto, tu rimani a questo punto fedele da un certo punto in poi di questa attuale amministrazione, perché 5 anni fa eri in una lista a sostegno di Ciccio Dolce sindaco, poi durante appunto i 5 anni hai ritenuto opportuno dare sostegno al sindaco Guercio. Tra l'altro il sindaco Guercio aveva avuto ampi consensi, si era presentato con tante liste al sostegno, ma addirittura c'è stato un momento in cui, per poter andare avanti, ha avuto bisogno nei numeri della presenza di Roberto e mi sembra di Roberto, no, Corsello, non solo di Roberto Corsello. Ecco, vogliamo fare un pochino di mi fa grande piacere che tu mi dai la possibilità di chiarire questo equivoco che qualcuno volutamente specula, ma che in realtà è secondo me estremamente chiaro, perché quello che è avvenuto alla luce del sole, sotto gli occhi di tutti. Innanzitutto io desidero fare una premessa doverosa. Io appartengo a quella categoria di soggetti, e qui dentro credo che per fortuna non sono il solo, che ama distinguere nettamente le vicende politiche dalle vicende personali. Per me l'avversario politico è tale, ma non è mai un nemico. Credo di avere la fortuna di essere dotato di un intelletto tale che mi consente di distinguere nettamente quelle che sono le divergenze di opinioni da quelle che sono le questioni di carattere personale, che se non ci sono non hanno motivo di far degenerare quelle che sono le divergenze politiche. Altri, ahimè, non la pensano così e finiscono sempre per trasformare quelle che sono delle divergenze nate all'interno delle aule istituzionali in, in inimicizie personali. Devo dirti che questo è un metodo che non, su cui, in cui non mi ritrovo ed è un metodo che non condivido assolutamente. Ciao Mauro, saluto Mauro Caliò che è appena sì. entrato. E ciò posto, Pino, è vero, io 5 anni fa insieme al mio caro amico Cicco Dolce abbiamo sostenuto una battaglia sotto le insegne del Popolo della Libertà, allora Forza Italia, partito nel quale io militavo e al quale mi sento ancora ideologicamente di appartenere, che era una battaglia che aveva una sua precisa connotazione, e cioè 5 anni fa attorno a Pippo Guercio si era aggregata una coalizione formata da soggetti che non avevano alcun collante né politico né programmatico, ma che era soltanto stata creata da un illustre stratega della politica sceso dalle montagne, venuto a Cefalù per creare questa coalizione che, come noi avevamo, proprio come io e Cicco Dolce in Piazza Duomo, avevamo agevolmente previsto, è implosa quasi subito, perché proprio non c'era un collante che li teneva uniti, erano uniti soltanto dall'essere contro la Vicari. Noi abbiamo sostenuto una battaglia contro quel metodo, che era un metodo basato proprio sulle inimicizie personali, sui veti nei confronti delle persone. C'era il veto per Roberto Corsello, c'era il veto per Cicco Dolce, c'era il veto per Alberto Barranco, c'erano dei veti che erano posti da taluni soggetti che circondavano Pippo Guercio nei confronti di altri soggetti, ma che erano dei veti che si basavano su inimicizie personali, che non avevano una finalità politica. Ciò posto, durante il corso di questa consiliatura, il sindaco Guercio, resosi conto di essere rimasto praticamente solo, perché quella che avrebbe dovuto essere la sua maggioranza, la maggioranza che avrebbe dovuto sostenerlo, non c'era più, ha fatto un appello pubblico alla città, e il mio partito, dopo una certa conflittualità interna che è rimasta in molti sensi, ha deciso di aderire a questo appello, pretendendo e ottenendo dal sindaco Guercio il disconoscimento di quello che era il percorso programmatico che lo aveva portato alle elezioni. Si è formata tutto questo pubblicamente in consiglio comunale, si è formata una piattaforma programmatica formata su 8 punti ritenuti essenziali, sui quali si è costituita una nuova maggioranza consiliare e una nuova amministrazione, che è cosa diversa da quella che era uscita vincitrice dalle urne 5 anni fa. Questo è quello che è successo. Dopodiché, recentemente, il PDL ha ritenuto di operare una scelta e determinati metodi di selezione di quelle che avrebbe dovuto essere il candidato a sindaco e anche le liste, che ha volutamente ignorato quelli che erano i rappresentanti istituzionali del partito insieme all'amministrazione, quindi sia me, che ero in giunta, che i consiglieri comunali, che venivano ignorati, facevano delle riunioni fra soggetti più o meno rappresentativi di non si sa bene che cosa, ignorando la rappresentanza istituzionale. Io ho preso atto che questo metodo evidentemente era volto a emarginare o escludere qualcuno e ho preso le distanze dal partito. Anche perché, ripeto, io ho ritenuto di dover continuare il progetto che si era iniziato col sindaco Guercio e quindi di dover continuare ad appoggiare anche in campagna elettorale il nuovo corso del dottore Guercio alla guida della città. Francesco Dolce, ecco, Ciccio, intanto la stessa domanda iniziale che ho fatto all'avvocato Corsello, con chi ti collochi, chi sostieni in questo momento, per carità? E io chiedo scusa intanto al radioascoltatore, ma è da diverse domeniche che col direttore di CRM Mario Lombardo intervistiamo i candidati a sindaco, intervistiamo per quanto riguarda esclusivamente verso le elezioni amministrative a Cefalù del 2012, ovviamente parleremo di programmi dopo la data dell'11 aprile, quando finalmente conosceremo ufficialmente sia i candidati a sindaco e sia le liste che sostengono i vari candidati a sindaco. Non lo possiamo fare adesso, perché così, parlando con le persone, con quell'elettorato che in questo momento si aspetta, ma non solo dalla città di Cefalù, io dico da tutte quelle città dove si rinnova il Consiglio Comunale e l'amministrazione, delle risposte ben precise ad una situazione che stiamo vivendo a livello mondiale, sarebbe riduttivo dire a livello solamente italiano. Quindi noi queste problematiche, queste situazioni li affronteremo nel momento in cui verremo proprio a conoscenza. In questo momento, scusate se lo dico, c'è un pochino di confusione, e la confusione non porta assolutamente situazioni di beneficio in una comunità. Io uso un termine, disorientamento. Stamattina, come dicevo prima, abbiamo saputo di un'ottava candidatura. Che ben vengano queste candidature, però si deve conoscere prossimamente come poter veramente affrontare i prossimi 5 anni e il futuro soprattutto della città di Cefalù. Ciccio Dolci, ecco la collocazione, e sappiamo che c'è stato questo passaggio delicatissimo 5 anni fa. 5 anni fa hai ritenuto opportuno dare la tua disponibilità quale candidata al sindaco, poi nel corso del quinquennio mi sembra che la situazione si sia un pochino sfaldata. Buongiorno a tutti e auguri per questa Domenica delle Palme, che è molto significativa dal punto di vista religioso. Io condivido pienamente quanto detto da Roberto Corsello per quanto riguarda la prima parte. È una vita che faccio politica, ma ho saputo sempre distinguere la politica dalla parte personale. La politica non è avversità verso o nemicizia verso gli altri, ma confronto, dialogo, possibilmente anche scontro forte, perché le opinioni possono essere diverse. Chi crede a un'idea, che prima l'idea era più presente nella coscienza degli uomini, oggi forse si è allontanata un po'. Ma quando c'era l'idea forte si arrivava anche allo scontro, ma alla fine si usciva dal Consiglio Comunale, si usciva dai comizi, finiva tutto, nel senso che la persona rimaneva sempre persona, l'amicizia rimaneva sempre amicizia. Allora, come diceva Roberto, ma non era la prima volta, anche dopo l'esperienza del professore La Grua sono nate dei veti nei confronti degli amministratori che uscivano, un metodo che poi ha portato, come la giunta Guercio, ad avere il professore La Grua senza una maggioranza in consiglio comunale. Quindi l'esperienza della prima volta non è servita nemmeno la seconda volta, e io credo che non serve nemmeno la terza volta, perché vedo che in alcuni ambiti ancora si privilegia il veto, si privilegia l'esclusione per garantirsi un posto in lista, perché se ci sei tu io non ce la posso fare. Quindi lo spirito, la volontà di una volta che doveva vincere la squadra e l'idea e il progetto che era il partito, oggi viene messa sotto i piedi dai personalismi di alcuni che ad ogni costo vogliono fare il consigliere comunale. Ma il consigliere comunale non è una carica per tenerla al fine personale, ma per un progetto politico, per la città. Allora io mi domanderei e domando ai cittadini: non sarebbe opportuno giudicare anche l'azione del consigliere comunale, oltre che quella del sindaco e degli assessori? Una domanda che pongo forte ai cittadini. Non si può votare per amicizia, per clientela e per quant'altro. Si deve votare valutando la capacità, l'onestà, la correttezza di chi rappresenta un popolo. Ciccio, in questo momento con chi sei collocato? Allora, in questo momento devo essere, perché sono sincero e dico sempre la verità, perché la politica è verità. Io ho una, diciamo, non la chiamiamo lite, un diverbio all'interno del gruppo che avevamo formato, che si chiama Alleanza per Cefalù, e sono in un certo senso autonomo e libero da posizione personale. Noi avevamo scelto il professore Croci, e questo era l'impegno che come Alleanza per Cefalù avevamo indicato. Oggi all'interno di questo movimento non sappiamo se si presenta la lista, se si presenta la lista con l'UDC, se si presenta una lista unitaria. È in discussione tutto un movimento che deve discutere prima di ogni cosa della riunificazione o della presentazione di una lista che possa comprendere tutto l'UDC, perché anche quelle... Scusa, ma le divergenze sono sul candidato al sindaco? No, no, sono interne a posizioni che devono essere chiarite, ma che sono normali, per una dialettica, la dialettica politica è normale, è ovunque. Fatta questa premessa, avendo fatto questa dichiarazione, non condivido la seconda parte di Roberto quando dice: noi come partito alla richiesta del sindaco Guercio abbiamo risposto, e io dico bene, a una collaborazione nell'interesse della città. Però volevo ricordare che il partito in cui era, e questo era il vero partito, dove era Roberto Corsello, dove era Scialab, dove era Barranco, era il partito che aveva un candidato sindaco, era un partito che aveva due liste, quelle erano le rappresentanze ufficiali, non potevano essere altre che in quella occasione di campagna elettorale erano fuori. Quindi il giudizio, l'espressione, la volontà doveva essere di questo. Doveva passare. Io credo che se questa decisione allora fosse passata da questo contesto, la realtà di oggi sarebbe completamente diversa. Allora, Ciccio, completamente diversa. Scusami, questo senza voler addebitare responsabilità a nessuno. Ciccio, desideravo. Scusami, per carità, ma le divergenze di idee, secondo me, io le ho accettate come momento di crescita, certo, di stimolo. Per fare. Allora, io desideravo arrivare proprio a questo punto che già tu hai messo a fuoco. Secondo me la mancanza della cultura di partito permette di avere dei cani sciolti che poi nel momento in cui vanno in consiglio comunale, il cane sciolto può determinare una delibera in un senso oppure in un altro senso. Ecco, io desideravo puntualizzare questo fatto, perché poi, ripeto, ci saranno dei momenti, ci saranno comizi, occasioni di incontro, tanti altri momenti in cui si potrà chiarire. Ma la mia personale preoccupazione, non esserci più quelle regole di partito, giuste o sbagliate, se si facevano in sagrestia o non si facevano in sagrestia, che consentivano una certa espressione che permetteva di andare e di poter andare avanti. Oggi già di per sé amministrare non è facile, al di là degli errori che si commettono anche nelle scelte di persone, eccetera. Se noi ci mettiamo pure questa situazione, che io vado tranquillo ad amministrare perché Corsello mi sosterrà, e dopo qualche mese ci accorgiamo che ci sono, scusate se uso il termine, dei salti in banco oppure il ribaltone o ribaltini che siano, e allora questo è un tradire l'elettorato. Questo è il mio personale punto di vista. Io ti fermo un momentino perché no, volevo, prego. Proprio per chiudere questa vicenda che caro professore tu hai espresso chiaramente, io volevo aggiungere che in questa prossima consiliatura questo rapporto della coerenza e della fedeltà al progetto che ogni candidato sottoscrive con la lista è importante, perché si pensa, io mi auguro che non succeda, che nessuno dei candidati a sindaco raggiunga il 40%. Questo significa che c'è un sindaco senza maggioranza. Quindi se la città non sta attento nella valutazione della scelta dei consiglieri, il consiglio nella prossima consiliatura diventa importantissimo per le sorti della città. Quindi se c'è un consiglio equilibrato, se c'è un consiglio con persone che hanno la testa, che lavorano nell'interesse generale del paese, aiutano qualunque sindaco ad andare avanti. Ma se c'è un consiglio che pensa ai problemi personali, che pensa agli scambi, tu mi dai questo, io ti do questo, questa città per altri 5 anni può avere il sindaco migliore del mondo, ma rimarrà ferma. Sì, non si può sbagliare più, Ciccio. Prego, allora, Roberto. Io ho voluto fare questo appello perché Ciccio deve ascoltare. Allora, noi possiamo parlare di tutto e di più, ma Cefalù non può sbagliare per i prossimi 5 anni. È verissimo, quello che ha detto Cicco Dolce nella parte terminale è verissimo, e devo dirti che il progetto che noi stiamo portando avanti e che subito dopo l'11 sarà presentato alla città, che prevede non già un programma nel senso tecnico obsoleto della parola, ma noi proporremo 10 soluzioni per Cefalù, cioè noi stiamo individuando nella nostra linea programmatica attorno al sindaco Guercio 10 questioni particolarmente rilevanti, e noi proporremo le 10 soluzioni su cui ci impegniamo e ci mettiamo la faccia per i prossimi 5 anni e con le soluzioni che intendiamo dare a queste 10 questioni. Questo sarà il nostro lavoro. Evidentemente, ha ragione Cicco Dolce, essendo questo un momento in cui purtroppo, per ragioni che vanno molto indietro nel tempo, la cultura dei partiti, il meccanismo, il sistema dei partiti, che è fallito nel 92 perché erano gli uomini che hanno sbagliato, ma il sistema, che peraltro è costituzionalmente previsto, era tutt'altro che fallimentare. Il metodo dei partiti che creavano una classe dirigente era un metodo che garantiva il funzionamento delle regole democratiche, del sistema democratico del nostro paese, e che ha consentito a questo paese, che è l'Italia, di diventare una grande potenza nel mondo sulle macerie della grande guerra. Ecco, quel sistema di partiti è fallito perché taluni soggetti lo hanno portato alla distruzione, ma il metodo in sé io lo rimpiango, perché i partiti creavano una selezione che oggi non c'è più. Ecco, noi nel nostro piccolo, nel formare le liste, le due liste che sosterranno la candidatura del dottore Guercio alla riconferma nell'amministrazione anche per il prossimo quinquennio, stiamo cercando di operare una certa selezione, e vedrete quando saranno presentate che si tratterà di 40 persone, tutte di specchiata rettitudine, tutte desiderose di impegnarsi per il bene di questa città e per il futuro della nostra città, indipendentemente da quelle che sono le lotte, se ci sei tu non ce la faccio io, perché probabilmente qualcuno, certamente anzi qualcuno resterà fuori, ma non è questo il metodo che abbiamo utilizzato nella formazione delle liste. Innocenzo, ecco, io sto così, le domande vanno fatte in ordine di arrivo nel nostro studio, per cui il nostro candidato a sindaco Mauro Caleò, che io saluto e che è in studio, subito dopo passerà. Innocenzo, c'è un altro, chiamiamolo disguido, ma è un disguido di una certa portata. Abbiamo letto il tuo documento in qualità di coordinatore cittadino, stiamo parlando della città di Cefalù, per coloro i quali ci ascoltano oltreoceano e ci vedono oltreoceano, perché sappiamo che ci seguono e sono in tanti durante queste trasmissioni, anche la comunità che sta fuori proprio dalle nostre mura. Innocenzo, vogliamo spiegare i termini, proprio sintetizzandoli ovviamente, di questo documento che è apparso e che abbiamo letto, simbolo sì, simbolo no, è la posizione sia quella del senatore D'Alia e sia la posizione appunto dell'UDC cittadino da te rappresentante in questo momento. Sì, grazie Pino. Come detto bene tu, io in questo momento rappresento l'UDC di Cefalù. Ma per iniziare il discorso mi volevo riallacciare a quanto aveva detto il signor Dolce alla fine, quando parlava di lista e diceva non sappiamo se presentare una lista civica, una lista UDC, non sappiamo cosa fare in concreto. Ebbene, io oggi da coordinatore cittadino posso dire sicuramente che fino a quando io sarò coordinatore cittadino una lista UDC col simbolo dell'UDC non sarà mai a sostegno del progetto Croci. Questo per fare chiarezza, perché la candidatura del professor Croci ha seguito un iter suo che ha tirato fuori l'UDC dal processo decisionale attraverso cui si è arrivati a quella candidatura. In un secondo momento, evidentemente, quando forse quella coalizione si è resa conto di non avere la necessaria forza per supportare quella candidatura, o quando quella candidatura si è iniziata ad essere percepita dalla gente, dalla città, come un corpo estraneo rispetto alla realtà cefaludese, si è tirato di nuovo in mezzo il nome dell'UDC. Siamo stati contattati a livello regionale dagli esponenti del PDL, dalle esponenti di Grandi Sud, ma l'UDC non ci sta a questo gioco. In un momento di difficoltà di un altro candidato non va a portare acqua al mulino di quel candidato. Per quanto riguarda invece la questione simbolo, devo fare un breve excursus su quello che è stato il percorso dell'UDC con la candidatura che noi avevamo espresso dell'avvocato Francesco Calabrese, perché tutt'oggi crediamo che per i 5 anni di consigliatura passati l'avvocato Calabrese si sia distinto come l'elemento di spicco del consiglio comunale, per le sue conoscenze in campo amministrativo, per le sue conoscenze della situazione economica in cui si trova il comune di Cefalù, per la sua presenza costante, il suo impegno costante nel territorio. Quello era il nostro progetto e quello rimane comunque il nostro progetto. In che senso? Nel senso che, come dicevi bene prima tu, Pino, a Cefalù si è venuta a creare una situazione di profonda divisione e noi ci siamo accorti che con 7, 8, 9 candidati si andava incontro a una situazione drammatica per Cefalù, perché il problema sarebbe sorto dopo le elezioni, quando probabilmente nessuno avrebbe raggiunto la maggioranza e quando la nuova amministrazione avrebbe trovato subito delle difficoltà nel governare. In tutto questo, quello che a me da cefaludese fa male, diciamo, è che spesso ho sentito durante le trattative, durante le molte riunioni che noi abbiamo fatto con altri partiti e movimenti civici, spesso dire da rappresentanti appunto di questi partiti o movimenti, fare un discorso del tipo: vabbè, noi tanto una lista l'abbiamo, presentiamo un candidato sindaco e dopo le votazioni andiamo a trattare quello che ci spetta. Ecco, ragionare in questi termini è deleterio nei confronti di Cefalù. Significa non pensare a Cefalù, significa pensare al tornaconto personale per un assessore, per ottenere un assessore dopo le votazioni in base al numero di consiglieri che ti scattano. Ecco, questo è il tipo di ragionamento che a me e al gruppo che rappresento non piace, ed è per questo che noi e Francesco in prima persona ha deciso di fare un passo indietro nei confronti della candidatura di Vittorio Sgarbi, per cercare di creare un momento di unione, cercare di fare un primo passo in avanti per aggregare forze politiche e forze civiche in vista di un progetto comune. A questo, come dicevi prima giustamente tu, va aggiunto il fatto che qualche giorno fa il segretario regionale dell'UDC D'Alia ha posto al nostro gruppo un veto sul nome di Sgarbi, a prescindere dal fatto che quando io sono stato nominato coordinatore cittadino del partito noi avevamo avuto carta bianca in sede di trattative, in sede di alleanze con altri organi politici, quindi questo già un controsenso di per sé. Ma a quello che mi interessa personalmente è che, qualora dovesse essere veramente così, qualora il simbolo UDC non dovesse andare a sostegno del progetto che io definisco Sgarbi Calabrese, il segretario regionale D'Alia lo deve spiegare pubblicamente, ma non tramite un comunicato, lo deve spiegare a quei cittadini, come ho detto ieri nel mio intervento, che hanno assistito al primo convegno, alla presentazione della candidatura di Sgarbi in Piazza Duomo. Lo deve spiegare a quelli, perché non è possibile che ancora una volta delle decisioni che hanno ricadute sul nostro contesto, hanno ricadute su Cefalù, vengono prese senza tenere in conto la realtà su cui si va ad incidere. Questo è un elemento sul quale io personalmente non transigo, e questo è il senso del comunicato che ho fatto ieri. Poi per quanto riguarda la questione simbolo non simbolo, da un punto di vista semiotico il simbolo è qualcosa a cui la gente dà significato. Il simbolo senza il significato e l'ideologia che ora ci fai una lezione sul significante. se il simbolo resta un significante, ma io sono preoccupato perché mia mamma ha 90 anni e poi a me il simbolo non interessa. Voglio dire che se dobbiamo parlare di politica dobbiamo mettere di nuovo al centro le persone e le loro idee. Quindi è inutile accettare ancora un tipo un inciso solo. Sì. Cerchiamo di avere il rispetto, cerchiamo di avere chi andrà, chi si assumerà la responsabilità tra il 7 e l'11, sia come candidato, sia abbiamo il rispetto degli elettori, perché non ne possono più. Allora io ve lo dico affettuosamente. Una volta si può. No, non mi rivolgo a te, mi rivolgo. Una volta si poteva pure. Vabbè, andiamo avanti, tiriamo a campare, eccetera, eccetera. Adesso non si tira più a campare, perché i misfatti che sono avvenuti da 20 anni a questa parte, non a livello locale solamente, e che stiamo pagando col sangue, perché, signori miei, siamo messi male sotto qualunque punto di vista, con tutti questi rincari e aumenti. Adesso si deve cercare di capire come poter risparmiare e come poter pure fare risparmiare una comunità, se è possibile farla risparmiare. Quindi qua è diventato una situazione veramente sociale sotto qualunque punto di vista, per cui la chiarezza che io mi auguro che possa avvenire da qui al momento delle elezioni deve essere una chiarezza tangibile. Cosa dobbiamo fare della nostra città di Cefalù con tutto quello che ha in termini di patrimonio artistico, culturale e soprattutto di risorse umane? Cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo andare a individuare per poter far sì che la città di Cefalù possa essere alleviata anche in determinate situazioni? Io questo lo ricordo perché qua mi sembra che un pochino con questo tipo di situazioni che si vanno a creare, e noi abbiamo scoperto oggi proprio che ci sono. Ciccio Dorci ha detto: noi abbiamo delle divergenze, che ben vengono, per carità. Voi che avevate già presentato un progetto in cammino e compagnia bella, di fatto c'è una situazione. Ancora non ho sentito Mauro Caleo, lui è sempre sereno e tranquillo, Mauro Caleo, quindi noi non, cioè io rivolgendomi proprio a quanti ci ascoltano eccetera, stiamo tutti attenti sulle responsabilità che ci andiamo a su, perché guardate che è stata una vera vergogna in questa legislatura che si va a concludere vedere dei consiglieri che si sedevano una volta da questa parte, una volta da questa parte, una volta accanto al sindaco, senza nessuna allusione, Roberto, per carità, come se niente fosse. La dobbiamo smettere. Non è stato come se niente fosse, come se niente fosse nell'andarsi a sedere, ma con tutte le conseguenze che poi giustamente abbiamo seguito e visto. Proprio un brevissimo inciso, proprio per il fatto che dicevi tu del rispetto della cittadinanza, del rispetto di coloro che andranno a votare. Il concetto che voglio fare che voglio chiarire io adesso è questo, che il passaggio di Francesco Calabrese, e cioè lo sposare insieme a noi il progetto di Vittorio Sgarbi, va proprio in questa direzione. Noi avremmo potuto fare una battaglia nostra con un nostro candidato, prendere i nostri voti, prendere i nostri consiglieri comunali e il giorno dopo trattare come hanno fatto gli altri, ma non lo abbiamo voluto fare proprio per il rispetto di Cefalù, per cercare di creare unione intorno a un progetto, come giustamente ha detto prima l'avvocato Roberto Corsello, con il loro progetto, che devo dire è comunque un progetto coerente in segno di una continuità con i 5 anni passati, e do ragione a Roberto sul fatto che tutte le criticità che ha dovuto affrontare l'amministrazione in questi 5 anni non vanno additate soltanto all'amministrazione stessa, anche il discorso che faceva il signor Dolce. Le responsabilità sono tante, anche del Consiglio Comunale, anche dell'opposizione fatta ideologicamente dal Consiglio Comunale, senza entrare in merito alle materie che si andavano a trattare e discutere, ma soltanto perché si voleva mettere in difficoltà l'amministrazione, e questo è deleterio, e spero che nei prossimi 5 anni non accada, perché ci troveremmo in una situazione veramente difficile. Ecco, siamo sulla stessa, da questo punto di vista, sulla stessa linea di pensiero. Ecco, Mauro Caleo, poi andiamo in pausa, poi riprenderemo con il vice sindaco Corsello, perché come vi ho detto prima ci deve lasciare. Mauro, io non ti intervisto da qualche settimana, sì. Sono stato tra l'altro fuori con la mia splendida scuola. Abbiamo visto pure Milan-Roma, caro Roberto, quindi ti devo dire che questo Meazza ha dei colori, forse il campo è com'è, ma lo stadio è una cosa eccezionale. Mauro, ecco, mi fai una sintesi di questo periodo in cui io non ti ho intervistato? Sì, certamente. Come tu hai detto poco fa, intanto saluto tutti gli ascoltatori e voi qua in studio, vi ringrazio sempre per la disponibilità che ci date di parlare alla città. Come hai detto, io sono molto sereno e tranquillo, questo mi contraddistingue credo da sempre. Questa serenità deriva dal fatto di avere un progetto chiaro, tracciato nel corso del tempo, e di non avere avuto durante questa campagna elettorale la necessità di confrontarlo, sì, assolutamente, anche con chi via via ha deciso di sposarlo e quindi migliorandolo con il contributo di tutti, però non abbiamo avuto la necessità di metterlo particolarmente in discussione, né soprattutto la necessità di verificare possibili alleanze o scambi. Chi ha ritenuto che fosse interessante si è avvicinato e ha deciso di appoggiarlo senza nessuna richiesta, senza nessuna pretesa. È il caso per esempio di Sell ha osservato a distanza fondamentalmente il nostro percorso e a un certo punto ci si è incontrati e hanno dimostrato interesse per il progetto, ma non si è mai parlato di poltrone, di cariche, di posti e quant'altro. Questo ci dà tutto sommato una libertà di azione non indifferente. È chiaro, poi qualche intoppo è accaduto, ma probabilmente nato da... Senti, il professore Sgarbi sotto ha detto che questo Mauro Caleò è un furbacchione. Quindi io riferisco a quello che ha detto Vittorio. Il furbo è il professore Sgarbi, nel senso che praticamente, spiego, poi mi vorrei riallacciare magari anche dopo la pausa alla crisi che la politica sta affrontando, perché effettivamente è una situazione molto grave e che non manifesta rispetto per la città, sicuramente per la città, per la nazione in generale, perché se lo estendiamo a livello nazionale il problema è lo stesso. Ci sono state troppe frammentazioni, manca dialogo, ci sono spesso scontri, tensioni causate anche da tesi che si spostano, posizioni che si vogliono mantenere piuttosto che conquistare. Noi pensiamo invece che... Chiamiamo gli interessi, che poi interessi, siano di bassa bene, lega stanno, o di stanno. Alta lega, poi ognuno lo va. Noi pensiamo e abbiamo sempre pensato che invece la politica debba essere fatta di confronto e di dialogo, motivo per cui anche personalmente ho sempre avuto modo di collaborare con le amministrazioni che si sono succedute nel tempo, perché se uno una cosa la deve fare per la città, la deve fare per la città. Può non essere d'accordo con la linea politica di un sindaco, ma se c'è la possibilità di costruire qualcosa per i cittadini è giusto farlo comunque. Quindi noi abbiamo portato avanti questo clima di dialogo, fondamentalmente di distensione, perché riteniamo che sia inutile scontrarsi o darsi coltellate, ma che la città debba scegliere un progetto. Da questo punto di vista, forse peccando un po' di diplomazia, mi sono recato alla presentazione sia del professore Croci che del professore Sgarbi, nella quale ho lanciato una provocazione. Ho detto: secondo me il nostro progetto si svolge sulla città, con i cittadini, con le nostre forze. E poi ho fatto la battuta, ho detto: tutto al più, se Cefalù dovesse avere bisogno di un po' di visibilità, una persona del calibro del professore Sgarbi potrebbe fare l'assessore. Lui a quel punto poteva o dirmi capra. Ma non l'ha fatto, anzi ha rilanciato dicendo: va bene, allora facciamo che eventualmente ci scambiamo gli assessorati. È chiaro che io l'ho presa come una battuta e tale doveva rimanere. E qualcuno ha pensato di ricamarci un po' sopra, qualche articolo di stampa non perfettamente veritiero, o meglio che interpretava, e così da lì c'è stata questa piccola bagarre, della quale però devo dire che soprattutto il discorso di Sell è rientrato subito, perché non c'era mai stato nessun tentennamento agli organi provinciali, e quindi noi andiamo avanti per il nostro percorso con i nostri progetti. Ecco, allora una breve pausa, poi riprenderemo con Roberto Corsello. Prima di passare la linea alla regia, caro Salvatore, grazie perché stai seguendo la nostra trasmissione. Io condivido pienamente quello che hai scritto, si sta parlando di cordate e alleanze ma non di programmi. L'ho detto in premessa, vorremmo esclusivamente capire prima come sono le cordate chiamate con nome e cognome, e subito dopo parlare di chi deve portare avanti questi programmi. In questo momento riteniamo opportuno fare chiarezza su situazioni che, credimi, in questo momento ci disorientano. Quindi Salvatore, un pochino di pazienza, nelle prossime trasmissioni ovviamente ci non solo dei programmi, ma chi deve portare avanti questi programmi, perché a questo punto gli uomini diventano di un'importanza tale. E perché ognuno deve mettere la propria faccia nel proprio settore per portare avanti quel programma che viene condiviso. Linea alla regia, grazie. Garante degli... Il modo migliore per rendere felice una donna è regalarle un gioiello, un valore eterno, adatto a sigillare unioni profonde e inossidabili.

Il dottore Guercio, candidato a sindaco sostenuto da queste due liste che tu già hai menzionato, in questi 5 anni è come referente politico, forse ne ha avuto più di uno, dico va, io adesso non voglio dire MPA, UDC e cose di queste, però c'è stato più di un referente politico, ripeto, poi durante i comizi, durante gli incontri con la cittadinanza ognuno potrà parlare di questi 5 anni e quindi queste sono domande che verranno fatte prossimamente. E questa le due liste con il dottore Guercio candidato a sindaco hanno punto o punti di riferimenti politici ben definiti? Beh sì, il dottor Guercio credo che abbia chiarito questo aspetto della sua collocazione politica, nel senso che lui ama ripetere che lui è per Cefalù, nel senso che lui la sua collocazione politica è assolutamente ininfluente, perché lui ha svolto la sua funzione di sindaco di Cefalù come se fosse stato un buon padre di famiglia in una famiglia piena di difficoltà. Evidentemente la situazione familiare di questa famiglia che è Cefalù, ai noi, non è florida, e quindi ha cercato di barcamenarsi. Il padre forse è stato sempre uno, ma le mamme forse sono state una famiglia un po' complicata, un pochino eterogenea, vabbè, un po' complicata, sì, avrebbe dovuto usare un po' di più un padre debole. Le maniere forti. In realtà questa carica di candidatura viene sostenuta e dalla lista civica Onestà e Tradizione e dalla lista di partito del Cantiere Popolare, che appunto si è schierato formalmente con il simbolo di partito accanto al dottore Guercio, e quindi appunto sarà una lista rigorosamente schierata dalla parte di un partito che è appunto il partito del Cantiere Popolare, che peraltro ha una tradizione anche importante nella nostra città e nella nostra provincia, appunto, è il partito del presidente della provincia, per intenderci, che appunto ha fatto una scelta di campo chiara in favore del sindaco Guercio. Io ti ringrazio, Roberto, non so se tu ti puoi ancora fermare. No, io purtroppo devo andare via, ecco. Ringrazio voi, ma volevo aggiungere qualcosa su Mario Macaluso, che ho visto che nelle 7 contrade che dovrebbero sostenere l'ottavo sindaco non c'è Santa Lucia, e io e Cicco Dolce che viviamo a Santa Lucia ci sentiamo emarginati e esclusi da questo progetto, e quindi non sosterremo il sindaco del Pesce d'Aprile, che è appunto questo l'ottavo sindaco, che è chiaramente un sindaco di Pesce d'Aprile. Con questa precisazione, con questo rammarico, io saluto Roberto, grazie per essere stato con noi, perché ripeto, sapevamo che stamane i tuoi tempi erano molto limitati, comunque l'importante è che sei stato presente e noi cercheremo, ecco, con gli altri 3 ospiti in studio di continuare buon lavoro, questo lavoro. Andiamo avanti, ciao Roberto, salutiamo il vice sindaco avvocato Roberto Corsello, Francesco Doce, ecco, noi con Francesco potremmo fare Ciccio, io lo chiamo Ciccio, col presidente Ciccio Dolce potremmo fare fiumi di trasmissione, perché anche la sua esperienza vissuta anche in altre realtà, nella sua polizia, perché è rimasta la sua polizia, sicuramente La mia polizia. Ecco, nella sua polizia sicuramente ne ha viste di tutto e di più. Ciccio, rispetto alla politica di una volta, cosa sta cambiando adesso? Ecco, vedi, ti faccio delle domande che non vogliono minimamente toccare questa situazione che avete per adesso e queste discussioni che avete in corso, perché sei stato chiaro all'inizio, noi ci dobbiamo prima capire. Io ti ringrazio intanto perché mi hai detto Ciccio da Polizzi. Ricordo 5 anni fa, alcuni non avendo cosa dirmi, quando erano contro mi dicevano dobbiamo votare pure il Polizzano, detto in questi termini. Beh, la storia di oggi ci dice che il sindaco Guercio, che aveva fatto una battaglia per la tradizione e l'originalità di Cefalù e quindi dei cefaludesi che dovevano amministrare questa città, nel corso di questo mandato abbiamo assistito a tanti e alla maggior parte degli assessori che non erano di Cefalù. Oggi assistiamo a candidati che vengono da fuori. Voglio dire questo, che non è questo il problema, se una persona viene da fuori o da dentro. Importante è quello che porta, quello che ha dentro, quello che è disposto a dare per una città, le capacità che ha, le professionalità che mette, l'amore, la passione con cui si fa politica e si amministra. Allora io ho detto, mi onoro di essere polizzano, non perderò mai i contatti con la mia tradizione e con la mia storia, ma nello stesso tempo sono onorato per quello che Cefalù mi ha dato in termini di onore nel ricoprire cariche importanti e di amore che i cittadini mi hanno dato. Queste sono le cose che contano. E quindi vorrei sgombrare il terreno. Il problema non è se uno è di fuori o di dentro. Ovviamente perché la mia domanda non era questa, io non sì, faccio sì, assolutamente... Sì, lo so, perché è di fuori o di dentro. Ma io allora ho pagato anche per questo, in alcuni ambiti della realtà cefaludese. Ciccio, forse, però dico, forse hai pagato perché i compagni che aveva accanto non avevano delle idee ben chiare su un progetto. Allora io dico che ormai quella è storia passata. Senz'altro. Noi dobbiamo guardare al futuro. Senz'altro. Io non ho nessun rancore, nessun risentimento, nessun odio, nessuna invidia, niente per nessuno. Dobbiamo guardare avanti per dare a questa città un'amministrazione che amministra, un consiglio comunale qualificato che si assume le sue responsabilità nell'interesse della città, è un progetto politico sulle cose che si devono realizzare e che si possono realizzare. A me piacerebbe molto parlare questa mattina anche di programmi, perché come l'architetto che è candidato a sindaco Galeò, anch'io ho lavorato su un progetto e su un programma mettendo la mia esperienza e le mie conoscenze in 15 anni di amministratore a Cefalù. Però dico, purtroppo oggi, come dici tu, abbiamo il dovere di pensare al primo punto: i candidati a sindaco, i consiglieri, i candidati, quale progetto politico oggi presenta la città. E quindi la domanda è pertinente: che differenza c'è tra la politica di ieri e la politica di oggi? Dal punto di vista sostanziale, tanta, perché allora la classe dirigente usciva dai partiti, che era una palestra di vita, dove giorno per giorno, ogni settimana, ogni mese, il dibattito sui problemi locali, sui problemi nazionali, sui problemi internazionali, i congressi nazionali, regionali, quindi chi usciva da quella realtà si portava con sé una preparazione e un bagaglio di coerenza, di idealità forte. Oggi la politica è individualismo, cioè tu sei all'interno di un partito per utilizzarlo a fini tuoi, non a fini di un progetto che quel partito ha. E quindi la rissa a non volere candidati che ti ostacolano, a volere tutto attorno a te in modo che non si muove niente che possa ostacolarti, e quindi deve essere caratterizzato dal personalismo e non da un progetto comune. Allora, se noi anche in questa competizione elettorale mettiamo dei punti fermi, e io condivido quello che dice te, io ho fatto e sostengo Caleò, tutti quelli che lo sostengono, se hanno un consigliere, devono portare avanti quel progetto che Caleò ha presentato durante la campagna elettorale. Questa è coerenza. Perché se poi il consigliere di Caleò si riscrive con un'altra parte, fa un progetto diverso da quello che è lui, non c'è più credibilità. Ecco, la differenza è questa. In questa condizione noi abbiamo assistito a persone che hanno... E non è vero che non c'era un progetto politico allora, perché c'era un progetto ben definito. C'era il PD che appoggiava Guercio, i partiti che appoggiavano Guercio, le stesse forze che erano nel centrodestra erano con Guercio. Quindi c'era un progetto politico chiamato della città Cefalù al di sopra di tutto, che comprendeva anche forze politiche, non comprendeva solo persone, solo che la formazione delle liste è avvenuta non ciascuna lista aderendo a un progetto politico, ma ciascuna lista aderendo al sindaco candidato. E quindi doveva essere il sindaco a mantenere la maggioranza di quel consiglio, perché il sindaco si è assunto la responsabilità di fare queste liste in questo modo. Cioè, non so se mi spiego. E quindi i consiglieri dovevano rispondere al sindaco, che doveva essere, Roberto diceva, il padre buono, ma forse il padre doveva essere più decisivo, più concreto, più capace di coordinare il Consiglio Comunale, perché la colpa sta non solo da una parte, ma sta anche da chi dirige una organizzazione. E finisco. E si può staccare pure la spina. E si può staccare pure la spina. Io ritengo, stavo finendo pure così. L'amico Pippo Vercio, che è un carissimo amico mio, e lo dico io la stessa sera che è stato letto, io l'ho chiamato al telefono, gli ho fatto l'augurio e mi sono permesso di dire: la mia collaborazione è sempre a tua completa disposizione, perché chi perde deve rispettare il voto popolare, perché in democrazia, nella nostra Costituzione, il voto popolare è l'arma più importante che esiste e quindi va rispettata. Non è un passaggio, ma è un passaggio che dura una consiliatura, una legislatura. Quindi mi sono permesso di dirgli queste cose. Allora, Pippo Vercio, tu hai vinto, vai avanti per la tua squadra. Io mi aspettavo da lui che nel momento in cui non avesse avuto più la maggioranza, quanto da 15, da 13 consiglieri, uno in più rispetto a quello che ci toccava, sono arrivate a uno, quanto arrivava a due, a tre consiglieri, doveva andare nel popolo e dire: io voglio ritornare a fare il sindaco, lo voglio ritornare dicendo la verità su quello che ho trovato, su quello che voglio fare, sulla realtà che mi ha impedito di governare. Oggi sarebbe il candidato di nuovo ideale per la città, ma non si può fare finta in 5 anni di fare passare il tempo, una colpa di uno, una colpa dell'altro, l'assessore passa. Oggi ci ripresentiamo di nuovo per dire: vogliamo fare un altro progetto futuro. Il progetto futuro possibilmente doveva essere fatto al momento opportuno e in termini più realistici di oggi. Ciccio, io ribadisco il concetto, perché ci dobbiamo, volutamente non parlo di programmi, perché ancora non ci sono situazioni chiare, tranne, ripeto, Mauro Caleo, che da me, Rosario Lapunzina, che si è presentato col suo programma sin dall'inizio, ma altre situazioni, secondo me, ancora dobbiamo attendere per vedere come si vanno a concretizzare. Questa è la situazione, mi sta sembrando anche di capire. Anche quella di Croce è concretizzata in fondo, diciamo, come alleanza, quindi non c'è. Anche quella c'è di Croce. C'è la Casa delle Libertà, c'è. Sì, anche quella di Croce. Grande Sud. Però scusami, la vostra lista. La vostra... No, ma la nostra lista come adesione, diciamo, dico, è là, non è che i membri hanno cambiato ad oggi opinione o parere. D'accordo, pienamente d'accordo. Innocenzo, per quanto riguarda Giulio Cortina, ecco, tu hai fatto una precisazione. Vogliamo in diretta spiegare, intanto Giulio Cortina è accanto a voi, non è accanto a voi, avete avuto dei chiarimenti, avete avuto degli incontri? No, vabbè, ma c'è in sintesi pochissimo da spiegare su questa questione. Non so Giulio Cortina in dove presenterà la sua lista, che farà per le prossime elezioni comunali. Ho scritto ieri nel comunicato che spero di ritrovarmi dalla stessa parte, che il mio gruppo e il suo gruppo si ritrovino dalla stessa parte, ma il riferimento che facevo io nel mio messaggio era un riferimento politico, non c'era niente di personale nei confronti di Cortina, che anzi stimo il suo operato come consigliere provinciale. È ovvio che il passaggio che ho fatto io nel comunicato era riferito al fatto che il signor Cortina, in questo caso, ma potrei dire il signor Dolce, potrei dire gli altri componenti, gli altri membri che si dichiarano UDC, ma che allo stato attuale non sono con l'UDC, e questa è una grande incoerenza che poi devono venire a giustificare un domani qualora le cose dovessero cambiare. Non sono stati loro a risollevare l'UDC dallo stato in cui si trovava quando il mio gruppo l'ha ripresa. Se oggi si parla di UDC, se oggi siamo riusciti a coinvolgere 30 ragazzi, che in questo momento, Pino, in cui regna l'antipolitica, è davvero difficile, siamo riusciti a coinvolgere un gruppo numeroso di ragazzi attorno di nuovo ad un simbolo partito, simbolo nel quale crediamo, e uomini nei quali crediamo, perché io penso che il segretario regionale D'Alia ha tutte le carte in regola per essere il prossimo presidente della regione. Mi auguro solo che ancora una volta non vincano le leggi di partito che vedono spesso Cefalù soccombere a degli accordi che vengono fatti ad un livello più alto. In quel caso noi non ci staremmo, e questo lo ribadisco. Poi per quanto riguarda la questione a cui ti riferivi prima tu dei programmi, io ho sempre pensato che però quando si parla di progetti, di programmi, si rischia di fare tantissima demagogia. Anzi, certe volte mi innervosisco quando sento parlare di progetti e programmi, perché io sfido chiunque a mettere giorno 11 aprile tutti i progetti e i programmi uno a fianco all'altro e vedere quali sono le differenze. Ci saranno pochissime differenze. Chi è che non fa un programma, chi è che non conosce i problemi Cefalù e chi è che non mette nel programma delle possibili soluzioni che magari saranno anche convergenti su quei problemi di Cefalù? Io nei programmi credo. Nel momento in cui un candidato a sindaco fa un programma a scadenza annuale, ad esempio il primo anno, mi impegna a portare a termine queste cose davanti al notaio, qualora non le dovessi portare a termine l'amministrazione non è possibile. Non è possibile, ma ti dico, se dobbiamo parlare di cose serie, parliamo di cose serie. Se ci dobbiamo prendere in giro, ci prendiamo in giro. Lo so che non è possibile, è una provocazione ovviamente, come non è possibile pure, scusa, questo te lo devo dire Cicco, il fatto che tu dici prima noi siamo però collocati con Croci, però non sappiamo cosa fare, è una situazione no, un po' ambigua. No, non ho detto questo. Alla fine non hai detto questo? Non ho detto questo, poi ci arriveremo. Ci arriveremo, però dico, mi sembrava questo. Non ho detto questo. Ambigua. Va bene, allora io per quanto riguarda appunto in questo momento tu dici, se noi mettiamo tutti i programmi assieme, esatto, ci può essere qualche virgola messa a posto sbagliato, questo è una cosa che verificheremo. Per cui tu questo significa che credi di più alle persone che andranno a portare avanti il progetto, quindi in questo momento tu dai priorità a chi andrà a portare avanti un progetto? Secondo me le due cose devono camminare sinergicamente. Non valgono più i programmi delle persone, non valgono più le persone dei programmi, vale a dire che un ottimo programma in mano a una persona sbagliata è un programma privo di valore, una persona invece che ha attorno a sé una squadra con dei programmi scadenti non ha un futuro, quindi le due cose vanno in sinergia. In questo momento in cui ancora dobbiamo arrivare alla data fatidica che è quella del 6 aprile, il momento in cui si consegneranno le liste e tutto sarà più chiaro, è inutile parlare secondo me allo stato attuale di progetti e di programmi quando la situazione politica non è ancora definita. Io penso pure alla sinistra, perché abbiamo parlato essenzialmente del centrodestra e delle spaccature. Ecco, tu pensi pure alla sinistra, io la domanda la farò pure a Mauro Caleo. Ma voi pensate che la sinistra si presenterà, io penso, esclusivamente con la sinistra, o sicuramente allargherà a quella che noi chiamiamo la società civile, perché è arrivato a un certo punto questa situazione delle elezioni per il prossimo futuro di Cefalù adesso comporterà pure delle scelte ben precise al di là delle tessere, perché signori miei le tessere qualche volta si sono dimostrate delle tessere non del tutto veritiere. Io, Roberto, mi dispiace che è andato via, ma il dottore Guercio fa capo al presidente della regione, il presidente della regione che potrebbe pure dimettersi per quelle dichiarazioni che abbiamo letto sui giornali. Sì, no, sono d'accordo con quello che dici tu e finisco il concetto. Dicevo, siccome si è fatto riferimento al centrodestra, alla candidatura di Croci, alla candidatura di Sgarbi insieme a Calabrese, non è che a sinistra le cose vanno meglio. La sinistra, ancora una volta, secondo me, e non è una polemica, è una constatazione, lo stato di fatto, sulla scia di quello che è successo a Palermo, mostra un autolesionismo che non ha eguali, secondo me. Allo stato attuale Cefalù, io penso che con quello che è successo nei 5 anni passati, avrebbe potuto finalmente la sinistra, avere una candidatura unitaria che unisse e che andasse anche a vincere le prossime elezioni. Ma allo stato attuale ci sono tre candidature che hanno origine appunto da partiti che orbitano a sinistra, vale a dire la candidatura della dottoressa Testa, la candidatura di La Punzina e la candidatura dell'amico Caliò con Sel. La candidatura della dottoressa Testa, sostenuta anche dai socialisti, vale a dire che se anche sul tavolo della sinistra si riuscisse a trovare una sintesi, per loro sarebbe molto meglio. Io chiedo a Mauro, perché mi permette di rubarti il lavoro, perché assolutamente perché a sinistra non si è riuscita a trovare questa sintesi? Ecco, intanto c'è questa domanda e poi noi andiamo, ci spingiamo pure oltre, perché in una precedente trasmissione addirittura si parlava di primarie, e dobbiamo dare atto a quello invece che sostiene Saro Lapunzina: le primarie fatte in questo modo danno dei risultati, Palermo insegna, e quindi dobbiamo stare attenti a queste primarie. Voi come vi state muovendo? Certo, se dovesse salire un candidato a sindaco di sinistra, si presuppone che chi non ce la fa potrebbe pure andare a sposare determinate linee che si portano avanti, si presume, eh? Mamma mia, allora vabbè, sicuramente anche nella famiglia della sinistra si vive la stessa sofferenza che la politica sta vivendo in generale, perché alla fine la crisi politica di cui abbiamo parlato fino ad ora non ha un colore, la crisi la stiamo vedendo a tutti i livelli, mancano i contenuti, manca forse l'etica che una volta era posta alla base anche dei partiti stessi. Quindi da questo punto di vista nessuno è esente. Probabilmente la differenza, quello che crea poi delle divisioni, non è tanto l'appartenenza quanto magari il metodo che uno pensa di voler seguire. Abbiamo sempre detto, e lo continuiamo a dire, che secondo noi già è sbagliato parlare di maggioranza e opposizione, che fra l'altro non sono i due termini che fisiologicamente dovrebbero essere contrapposti, ma si dovrebbe parlare di maggioranza e minoranza. E quindi probabilmente in questo fondamentalmente io o altri del mio gruppo non ci siamo trovati d'accordo sulla linea del Partito Democratico, che nonostante gli si possa anche dare atto di avere fatto certe volte proposte anche in Consiglio Comunale, però all'interno della città non si è creata quello spirito di rinnovamento, quello spirito costruttivo, anche con coinvolgimento pubblico, manifestazioni. Quello che manca nella vita politica cittadina è proprio questo, che si fa politica per un mese. Anche se il Partito Democratico è stato forse l'unico partito presente per 5 anni con un organismo delineato, con le primarie per il segretario, con presenza nella città per le lotte politiche, però spesso manca poi quel coinvolgimento della città sul piano anche culturale. Dico, ma è mancato soprattutto anche dalle altre parti, il fatto che persone che hanno proposto un progetto, poi per 5 anni stiano nell'ombra, scompaiano, non continuano a costruirlo, è quello che poi porta a questi scenari a un mese dalle elezioni, perché altrimenti se si lavorasse nei 5 anni subito dopo il voto, in teoria non ci sarebbe neanche bisogno di fare campagna elettorale, perché il cittadino dovrebbe avere già gli elementi necessari per valutare, perché Mauro Calio non deve essere valutato per quello che riuscirà, se farà il 6x3 alla Villa o quanta potenza economica riuscirà a investire nella campagna elettorale. Mauro Calio deve essere valutato per quello che rappresenta, per quello che, attenzione, non solo Mauro e le persone che compongono il suo progetto debbono essere valutate per quello che Mauro storicamente ha fatto e per il quale è stato conosciuto nella città. Questo spesso manca e poi ci si ritrova un mese a riproporsi. Quindi probabilmente questo scenario così frammentato deriva proprio dal fatto di non avere costruito nel tempo. L'impegno che noi prendiamo oggi, che abbiamo già preso e che io oggi confermo nella città, è che Cefalù Possibile, che è nata probabilmente con l'esigenza di trovare una coerenza che al momento non si è trovata all'interno dei partiti, Cefalù Possibile promette alla città di rimanere presente sul territorio dall'8 maggio in poi, qualsiasi cosa accada, se io diventi sindaco, se io diventi consigliere, se io non abbia neanche un consigliere, la città dovrà avermi come riferimento per i prossimi 5 anni, e a quel punto qualsiasi sia il risultato elettorale diventerà un punto di partenza e noi rimarremo riferimento per chi ha creduto in noi, perché il problema è proprio quello. L'amministrazione, l'esito delle elezioni è il punto di riferimento della città. Chi ha votato un consigliere deve sapere che quel consigliere è il suo referente all'interno del consiglio e nell'amministrazione. quando non si sposa più un progetto, quando si ritiene che quel progetto sia fallito, non si può cambiare gruppo consiliare, non si può passare dalla maggioranza all'opposizione, ci si deve dimettere. Io credo che quel progetto non sia più valido, è giusto allora che sia la città a tornare a esprimersi per trovare un progetto valido. Non si può cambiare, no, non mi convinci più, allora vado con lui. Ma se io con lui in campagna elettorale ho detto che era un asino, perché poi ci devo andare? Non è più un asino, non è possibile, allora si riazzera tutto e la città si torni ad esprimere. Ciccio, per quanto riguarda anche quest'ultimo concetto esplicitato da Mauro Caleo, i candidati a sindaco, tranne l'ottavo, ripeto, già si conoscono. La domanda la rivolgo a te, intanto io desidero precisare un fatto, poc'anzi l'appartenenza a Polizia per me è un'appartenenza dal mio punto di vista, che faccio scuola e mi permetto di dire che faccio cultura scolastica, insomma è un fatto di orgoglio potersi identificare ognuno con... E l'ho capito quando ti ho detto ma cosa sta succedendo tra Polizia e Castellana, e tu subito mi hai detto, caro Pino, io parlerò perché queste divisioni non mi piacciono assolutamente, avendo pure amministrato Polizia, quindi questo era un passaggio che desideravo dire. Caleò, anche se in modo velato, come nel suo stile, ha toccato un altro punto. Si conosciamo i candidati a sindaco. Quanto potrà influire la conoscenza della squadra che ogni sindaco andrà ad individuare? E ovviamente non le liste, perché anche quelle, ma i nominativi inserite nelle varie liste, secondo te e dalla tua esperienza? Io condivido quello che ha detto il candidato sindaco Caleò, nel senso che la politica non può essere un problema di un mese di campagna elettorale. La politica vive tutti i giorni, perché i problemi della gente sono giorno per giorno, i problemi da risolvere sono in continuazione, e a volte prende un provvedimento ma lo deve cambiare, quindi non può essere nella vita si fanno anche modifiche, si migliora, e quindi se non c'è la presenza, se non conosci il problema, se non sei presente nella città, come puoi guidare un paese? E quindi se ti poni dal punto di vista politico a volere guidare un movimento, questo movimento, anche se non è in maggioranza, ha il dovere, il diritto, io dico, di essere presente sempre sui problemi. Quindi l'impostazione che dà lui, dire qualunque sia il risultato io sarò sempre presente, è una dichiarazione, non ho paura di dirlo, che le fa onore. Se facessero tutti così, sicuramente la prossima volta costruiremmo, io non ci sarò sicuro perché la mia età non me lo consente, ma sicuramente in tutti i paesi si costruirebbe una classe politica dirigente capace, all'altezza di poter gestire la cosa pubblica, quindi condivido. Volevo, se me lo consentite, per fare chiarezza sulla mia posizione di oggi, perché altrimenti rimane ambigua. Posizione e ruolo. Ruolo. Volevo leggere una lettera che ho inviato ai miei amici che fanno parte del gruppo politico democratico Alleanza per Cefalù. Cari amici, desidero sentitamente ringraziarvi per avermi dato l'opportunità di rappresentare politicamente il gruppo politico di centro democratico e cattolico Alleanza per Cefalù. Sono stato particolarmente felice di poter esprimere il mio impegno in nome e per conto di persone che ritengo professionisti serie e preparate, tutte persone rispettabili sia nel lavoro che nella vita, in grado di poter rappresentare dignitosamente la politica e le istituzioni. Penso che in questa avventura, in poco tempo, siamo stati in grado di dare una forte identificazione al gruppo, tanto che nella nostra società è stato accolto con benevola attenzione. Penso che tutti insieme siamo stati capaci di elaborare un progetto per Cefalù che ha trovato vasto consenso nell'opinione pubblica, almeno con quelle che l'abbiamo potuto esaminare. Ho condiviso sin da subito la volontà di tutti i componenti di coinvolgere in questo progetto l'UDC a tutti i livelli. È naturale che nel corso di un consolidamento di un gruppo possono esserci divergenze, posizioni diverse, ma in tutti credo che sia stata precisa e determinata la consapevolezza di avere costituito un gruppo che come principale obiettivo avesse l'interesse per il paese e l'Italia e per Cefalù in particolare. Ma è il momento delle decisioni finali. Pertanto, così come mi sono permesso di dichiarare nell'incontro tra i dirigenti dell'UDC regionale, provinciale e di Cefalù, c'era compreso anche l'amico Iacono, ribadisco che sono disposto ad offrire ancora la mia disponibilità nell'auspicio che si verifichino le seguenti condizioni. Un chiarimento franco e leale e sincero con tutti i componenti. Con tutti i componenti che si dichiarano dell'UDC. Una chiara e inequivocabile scelta delle alleanze da parte della direzione regionale e provinciale dell'UDC. Non credo che un partito possa dire, e condivido con Neagono, tu non vai con Sgarbi e non indichi né il motivo né altre soluzioni. L'approvazione delle liste o delle liste da parte di tutti i candidati e dirigenti locali, con controllo e decisione, così come avveniva prima, finale da parte dei dirigenti regionale e provinciale, e ciò per evitare personalismi. Approvazione di un protocollo d'intesa, nel quale vengono fissate, ed è quello che abbiamo detto poco fa, le regole e i comportamenti dei probabili consiglieri ed assessori che devono garantire coerenza, partecipazione alle scelte e condivisione del progetto politico presentato. Quello che dicevo poco fa l'amico Caliotti. Auspico che questa dichiarazione che testé ho fatto venga presa con animo sereno, con senso di responsabilità da parte di tutti e si possa iniziare insieme un progetto nell'interesse della nostra città. E allora io adesso faccio parlare, perché questa è un'altra lettera, è un altro comunicato dal mio punto di vista pesante, perché scusa, no, pesante no, mi pare no, che pesante, pesante nel senso alleanza per pesante, scusate, alleanza per Cefalù, se non mi era se non avevo capito male, era indirizzata a sostenere Edoardo Croce. Stiamo dicendo, non è che stiamo dicendo, no, un minuto. L'UDC sì, sì. È indirizzata a l'UDC ufficiale, no, l'UDC Iacono. E Iacono lo sapeva. Iacono è l'UDC ufficiale. Sì. No, no, dico, ma questo, sì, sì. Questo già era suonato prima. Sì, sì. Questo ho capito. È una novità questa. Non è una novità. Gli schieramenti già erano costituiti. Ma quella lettera è sempre valida? Sì, sì, certo. Ma no, gli schieramenti sì. Erano costituiti. L'UDC con Sgarbi e noi con Croce. Quindi non è che stiamo facendo novità. Ora c'è una posizione dell'UDC ufficiale che dice con Sgarbi no. Ma almeno dica con chi. Ho capito. Cioè, non so se e che dica i motivi perché non con Sgarbi. Ho capito. E che dica, e non so se hai capito. Chiarissimo, cioè, chiarissimo. Allora facciamo questo chiarimento tutti, ma questo vale, secondo il nostro modo di vedere, nell'interesse della politica locale. Cioè, parliamoci chiaro. Insomma, in poche parole, cioè, assumiamoci tutte le responsabilità. Se voi non doveste andare con Sgarbi, per esempio, quella lettera la terrete in considerazione? Allora, devo fare alcuni passaggi per rispondere alla lettera del signor. E questa è inviata ai miei amici. Sì, inviata. No, vabbè, dico per fare delle considerazioni su quella lettera. In primo luogo devo dire che la posizione dell'UDC a febbraio, quando è stata espressa la candidatura dell'avvocato Calabrese, era una posizione chiara. A quel tempo, legittimamente, dico signor Dolce, legittimamente qualcuno che si dichiarava UDC e che faceva parte dell'UDC ha deciso di non condividere la scelta ufficiale del partito, cioè la scelta di candidare l'avvocato Francesco Calabrese. Non condividendo quella scelta, perché siamo in democrazia, non tutti si devono accodare a delle scelte, anche se in quel caso era ufficializzata dal segretario regionale D'Alia, si sono andati a porre con la lista civica Alleanza per Cefalù sul tavolo Croci, andando a sostenere la candidatura del professore Croci. Ora, il mio dubbio, ed è una considerazione che vorrei sottoporre anche a quanti stanno ascoltando, è perché adesso Alleanza per Cefalù si vuole tirare indietro dal tavolo Croci? Ma sicuramente non abbiamo detto questo. No, come non abbiamo detto? Ragioniamo. comunque finisco e poi mi controbatte. Finisco e poi mi controbatte. Sì, perché adesso ha questa disponibilità a ritrattare? Dice se l'UDC fa un passo indietro abbiamo un nuovo viriamo su un nuovo candidato, eccetera, eccetera. Non è questo il punto. Il punto è, io voglio sapere la motivazione di questo ripensamento. Cioè, si è percepita una debolezza sul tavolo Croce e quindi si vuole tornare indietro? Oppure non, sicuramente non è dettata, secondo me, da un amore nei confronti del partito. E poi anche soprattutto mi piace ricordare che qualora l'UDC ponesse il veto sul nome di Sgarbi e si dovesse fare un discorso di partito, allora c'è una candidatura espressa già dall'UDC, che è la candidatura dell'avvocato Francesco Calabrese. Se su quella candidatura il gruppo Alleanza per Cefalù converge, bene, altrimenti secondo me non abbiamo argomenti su cui discutere. Scusa, prima di poi passeremo la linea alla regia e poi ci sarà un'ultima domanda per i tre ospiti presenti in studio. L'UDC sì. In questo momento sicuramente sta vivendo, anche l'UDC ci sono dei momenti di chiarimenti. Angelo Gallà. Sì. Ecco, Angelo Gallà, arrivato a un certo punto, aveva detto noi l'abbiamo pure invitato, non ha ritenuto, per carità, noi rispettiamo sempre le volontà dei nostri ospiti, no, dici, non mi sembra in questo periodo che io possa intervenire. Angelo Gallà è stato tra l'altro un assessore in questa amministrazione che, ripeto, va a chiudere il proprio percorso tra un mese circa. E la situazione all'interno dell'UDC, proprio in modo schietto, Innocenzo, ci sono pure delle anime divergenti, ci sono situazioni che vanno riprese? A quanto ne so io, diciamo, perché ci sono ancora un po' di movimenti che lavorano nell'ombra, diciamo, aspettando forse il momento giusto per uscire. Quanto ne so io, chi sostiene l'ipotetica candidatura di Gallà non è UDC, ma fa parte del gruppo Antinoro, sì. Quindi PID, quindi nemesi dell'UDC, voglio dire, non hanno niente a che fare da un punto di vista politico con noi. Riaffermando il discorso, secondo me la posizione dell'UDC è chiarissima, lo ripeto un'altra volta linearmente e sinteticamente. Abbiamo espresso una candidatura, la candidatura calabrese ufficializzata dal partito. A quella candidatura un gruppo forte di giovani, ragazzi e uomini UDC hanno aderito e hanno sposato quel progetto. Un altro gruppo UDC ha ritenuto di non condividere in quel momento quel determinato progetto, scegliendo altri lidi. Nel momento in cui l'UDC si dice Falù si è resa conto di quello che stava succedendo, della situazione politica che si stava delineando, vale a dire candidature, divisione su divisione, abbiamo deciso di non fare Don Chisciotte e lottare contro i mulini a vento facendo una battaglia per prendere tre consiglieri comunali oppure per aspirare un assessorato dopo le elezioni. Ci siamo schierati assieme ad un progetto che riteniamo ad oggi il progetto vincente, sia da un punto di vista di politica aritmetica, sia da un punto di vista di politica etica, perché io condivido molte di quelle cose che sono state dette. Ovviamente questo è il progetto Sgarbi calabrese e soprattutto da parte del professore Sgarbi deve spostare l'attenzione non dalle tematiche che sono state trattate finora, che sono tematiche che alla cittadinanza non interessano, a delle tematiche concrete inerenti al futuro di Cefalù. Futuro di Cefalù di cui già Sgarbi ha parlato con noi, ci ha prospettato le sue idee che noi abbiamo condiviso. Allo stato attuale quindi la posizione dell'UDC è chiara ed è questa. Ripeto ancora una volta, qualora ci dovesse essere un veto da parte del confermato da parte del segretario regionale D'Alia su questo progetto, allora noi prenderemo le nostre decisioni. Sicuramente da un punto di vista di coerenza, io da coordinatore cittadino del partito, scusami Innocenzo, in consiglio comunale l'UDC aveva rappresentanti, ma il consiglio comunale sì, mi sembra 5 anni fa. Ecco, questo anche per chiarirlo, perché l'UDC insomma è un partito che sta seguendo anche una certa linea nazionale, anche a livello regionale sicuramente dirà la sua. Aveva dei consiglieri che appunto facevano capo all'UDC?

Troverai carni bianche di ottima qualità, dai tacchini ai polli alle quaglie. Una scelta unica e gustosa. E ancora i polli disossati e i rollò di pollo. E se non hai tempo per cucinare, proprio accanto trovi la rosticceria con polli allo spiedo, accompagnati da deliziose patatine fritte da gustare in un attimo. Ricorda, Polleria Rosticceria San Salvatore di Caccamo e Catanzaro, strada statale 113, numero 4753, contrada Pietra Pollastra, vicino al passaggio a livello di Cefalù. Per la tua pubblicità su CRM, telefono allo 0921 423 456. Quella tra una novità e l'altra, domenica 1 aprile 2012 ci avviamo alla conclusione di questa puntata verso le amministrative a Cefalù del 2012. Io ringrazio intanto i nostri ospiti, iniziando dal vice sindaco Roberto Corsello, che ha dovuto lasciare il nostro studio prima, e sono ancora con chi conduce Mauro Caleo, Francesco Dolce e Innocenzo Iacono. E che avete proprio l'ultimissima battuta per quanto riguarda questa puntata di quella tra una novità e l'altro. Mauro Caleo, cosa continuerai a pensare nei prossimi giorni? Cosa continuerò a pensare nei prossimi giorni? Sicuramente la cosa che sarà prioritaria sarà quella di individuare il metodo migliore per comunicare ai cittadini cosa vogliamo fare per loro. Finora purtroppo non ci è stata data la possibilità di farlo. Come dicevo, bene o male già ci si conosce a Cefalù, tutto sommato c'è anche questo vantaggio. La maggior parte dei cittadini sanno chi siamo, quali sono le nostre idee in linea di massima, in generale. Adesso è il caso di cominciare a far capire alle persone cosa pensiamo di fare per la città. Qualche pillola l'abbiamo data qua e là sul metodo, soprattutto sulle modalità di approccio ai problemi. Speravamo di poterlo fare con più costanza. Diciamo che avevamo cercato di tenere noi il passo, no? Con gli incontri che abbiamo cominciato a fare a settembre, forse abbiamo consentito che la campagna elettorale partisse un po' in anticipo, però poi siamo stati travolti da tutte queste vicende di spostamenti vari che hanno spostato l'argomento obbligatoriamente sulle alleanze, nonostante non ci riguardassero in prima persona. A questo punto si deve assolutamente, siccome noi l'unica alleanza che vogliamo fare la vogliamo fare con i cittadini, pensiamo che a questo punto ci si debba concentrare su comunicare nel modo giusto i nostri contenuti, la nostra linea etica soprattutto. E quello che è importante non è tanto, perché io sono d'accordo con Innocenzo, i programmi, che il lungomare si debba rifare, lo sappiamo tutti. Allora intanto ci auguriamo che ognuno di noi sia capace di dire come lo vuole fare, in quanto tempo e con quali finanze, perché questa potrebbe essere forse l'unica differenza, impegnandosi poi a rispettarlo, perché altrimenti possiamo dire tutto il contrario di tutto. Ma soprattutto quello che noi cercheremo di comunicare ai cittadini nel prossimo periodo è di scegliere con la testa, con la coscienza. C'è in ballo il futuro nostro nell'immediato, dei nostri figli successivamente, perché saranno 5 anni che potrebbero essere determinanti per l'economia cefaludese. Quindi noi cercheremo di concentrarci, lo faremo già in questa settimana, nonostante l'impegno di completare la lunghissima documentazione necessaria per la presentazione delle liste, ma ci concentreremo sicuramente sul raggiungere il più possibile i cittadini, i tanti cittadini che non vogliono votare, perché ce ne sono tantissimi, e dire: signori, usate la testa, accendete la testa, votate la persona sicuramente, ma votate con la consapevolezza di scegliere il meglio per voi, per i vostri figli, per i vostri genitori, per i nostri nonni, per tutti. Soltanto con il voto consapevole potremo dare un progetto alla città che sia un punto di partenza sul quale costruire in futuro. Le alleanze lasciamole ai politici. Ciccio Dolce, la stessa domanda: come ti muoverai nei prossimi giorni, diciamo, come appartenente alla lista Alleanza per Cefalù? Intanto devo fare un chiarimento che mi sembra d'obbligo. Noi non abbiamo nessun problema personale nei confronti dell'avvocato Calabrese, e nemmeno come persona, come professionista, e nemmeno come probabile allora candidato sindaco. La nostra posizione era diversa, così come diamo atto al segretario Innocenzo di avere organizzato e messo su un partito, l'UDC, che prima non c'era. Nessuno lo può misconoscere. Nello stesso tempo volevo dire che nel frattempo un gruppo di persone che fanno parte, così come dicevo, del gruppo l'Alleanza per Cefalù, che sono persone rispettabilissime, si sono messi insieme cercando di dialogare con l'UDC ufficiale. Non è che non condividevamo la candidatura dell'avvocato Calabrese, dicevamo una cosa ben diversa. Noi prima abbiamo necessità di trovare un'alleanza capace e forte per poter realizzare un progetto, e quindi la candidatura, come per Calabrese, ma anche negli altri schieramenti credo che si dovrebbe fare così. Lui mi è testimone di una battaglia che ha fatto in questo senso. Prima si discute, prima si affrontano i problemi, prima si parla di programma e poi si sceglie. Sul metodo eravamo di contrario. Volevo fare questa precisazione per scomprare il terreno dai personalismi. Personalmente io non ho mai fatto, e credo che nessun altro. Poi, per quanto riguarda la questione federazione, comitato regionale dell'UDC, io vorrei che Innocenzo, con l'onestà intellettuale che riconosco, confermasse quello che io dico. 15 giorni fa, 20 giorni fa, siamo stati chiamati dalla direzione regionale e provinciale i due gruppi, loro che appoggiavano a Sgarbi e noi che appoggiavamo Croce. Lì si voleva trovare una mediazione, un nuovo candidato, una nuova situazione, eccetera eccetera. Arrivato a un certo punto mi sono permesso di dire pubblicamente, dico, voi che siete i dirigenti regionale e provinciale dell'UDC sapete queste nostre due posizioni, individuate la posizione, una posizione unitaria, o la vostra posizione, ce la comunicate. Chi è favorevole entra, chi non è favorevole, ognuno, un partito deve avere anche la determinazione, la forza di dire si fa così, perché sennò non ha senso aderire a un partito, o ognuno fa quello che vuole fare. La mia proposta è stata accettata. Da allora ad oggi non abbiamo avuto una posizione ufficiale del DC a livello regionale o provinciale di dire la nostra posizione è questa, tranne una di dire a loro noi non siamo con Sgarbi. Ma questo non chiude il problema, non risolve il problema. Allora la lettera che ho scritto io volevo dire questo: se non c'è una soluzione, visto che noi allora abbiamo aderito lì all'UDC e quindi di conseguenza Alleanza per Cefalù non c'è più, se entro pochi giorni non sappiamo una decisione ufficiale, dice, ognuno, e per quanto mi riguarda, si assume una posizione personale. Chiarissimo. Cosa farò? Aspetto intanto che questa decisione arriva possibilmente subito, perché insieme con gli altri ci adopereremo per fare una campagna elettorale, così come diceva Galeò, spiegando quello che vogliamo fare, gli impegni che assumiamo, perché sicuramente vogliamo assumere impegni nella direzione di far crescere e migliorare questa nostra città. Pino, scusa, posso prego rubarvi solo sì, poi conclude Innocenzo, solo 10 secondi, perché mi ero dimenticato una cosa. Noi nel frattempo continuiamo pure a fare campagna elettorale in maniera un po' bizzarra, no? Perché questa cosa forse ci ha contraddistinto un po' fin dall'inizio, nel senso che al di là del messaggio politico pensiamo di voler dare anche altri segnali alla città. Per farlo, da domani per una decina di giorni presso la nostra sede elettorale, in maniera del tutto anomala, ospitiamo una mostra di pittura, una collettiva di pittura, per far sì che in questa settimana a cavallo di Pasqua la gente possa avere, visto che si è detto via Matteotti si è animata perché hanno aperto un sacco di sedi, noi pensiamo di animarla anche in questo modo, speriamo nei giorni a venire anche di avere qualche momento musicale con l'arte, allora, con la cultura. No, questo è il suggerimento di Sgarbi. Se vuole che la fate lavorare, prego, altrimenti alla fine non è più. E questo è anche un atteggiamento che pensiamo di portare nei 5 anni. Ecco, era giusto che si desse anche questa comunicazione. E Innocenzo, a chiudere, abbiamo ascoltato il pensiero di Ciccio Dolce. Adesso ascolteremo il tuo e chiudiamo questa trasmissione appunto dell'1 aprile 2012. Sì, allora mi riallaccio alle parole del signor Dolce. Per onestà intellettuale, come giustamente il signor Dolce ha esposto la sua tesi, io espongo brevemente la mia. È vero, siamo stati convocati al tavolo dal segretario regionale D'Alia, ma a quel tavolo, diciamo, la nostra presenza era dovuta semplicemente da una, era determinata da una volontà di ascolto e di ascoltare e di capire anche quella nostra. Sì, anche quella, però Cicco, il punto secondo me, un punto su cui mi deve dare ragione, cioè se il candidato che avevate scelto quando non avevate condiviso o comunque vi eravate dissociati dalla candidatura calabrese UDC fosse stato un candidato forte, un candidato che tirasse per la città, un candidato che si percepiva potesse vincere, a quel tavolo non ci sareste stati. Questo io lo penso e lo dirò sempre. Questo qua. No, non mi sbaglio, non mi sbaglio, non mi sbaglio. Comunque dico, è una divergenza di vedute che abbiamo. Sono d'accordo sul fatto che dici tu di non accettare imposizioni che piovono dall'alto tanto per, e sul fatto di trovare una sintesi tra i due gruppi. Fermo restando che la posizione che rivesto, cioè quella di coordinatore cittadino, devo dire che difficilmente io posso pensare di smuovermi dalla posizione che il mio gruppo ha preso adesso, perché ritengo essere la posizione vincente per Cefalù, per i cefaludesi e per il mio gruppo e per il partito che rappresento. Se il signor Dolce e il gruppo che rappresenta vogliono discutere anche di questo, noi siamo ben lieti di ascoltarli su questo progetto. Benissimo, io chiudo questa puntata di qua e là tra una novità e l'altra. Permettete di formulare i migliori auguri di una santa e serena Pasqua domenica prossima. Ecco, per i credenti è Pasqua di resurrezione. Io mi auguro che anche queste trasmissioni possano contribuire a fare chiarezza, lo mettiamo tra virgolette, Mauro, va bene, e ci auguriamo che su Cefalù ci possa essere sempre quella luce, come una giornata come quella di oggi, che è una giornata paradisiaca per la nostra città. Ma per arrivare a questa luce ci vogliono pure le persone, ci vogliono i programmi, ci vogliono i progetti, e penso che Cefalù abbia tutte le potenzialità per poter centrare l'obiettivo. Da Pino Simplicio, da Angelo Arduino, la luce siete voi, perché date la possibilità di far capire agli elettori tramite noi ognuno il proprio pensiero, e questa è una luce forte. Da Angelo Arduino, da Pino Simplicio, un buon proseguimento di giornata e ben sintonizzate su CRM. Buona domenica a tutti. Buona domenica, signori. Qua e là tra una novità e l'altra.